Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento del sabato e della domenica con le riviste italiane e straniere. Se avete ascoltato la nostra trasmissione di domenica scorsa, ricorderete che abbiamo parlato di questo dibattito che sta crescendo in Francia sull'utilità dei voti nei primi anni di scuola. Ne abbiamo parlato perché sulle riviste francesi ha guadagnato spazio una corrente di pensiero che intende battersi contro i voti numerici a scuola, numerici o in lettere come fanno gli anglosassoni, poi poco cambia, a favore invece dei giudizi. A motivo, a supporto di questa decisione, di questo movimento d'opinione, il fatto che l'utilizzo del voto non aiuterebbe gli studenti, i giovanissimi studenti, ma invece finirebbe per puntare troppo sui lati negativi e quindi creare poi le basi per insuccessi ancora più clamorosi con la degli anni. Prende posizione su questo tema Antonio Mazzi, Don Antonio Mazzi su Famiglia Cristiana di questa settimana prende posizione a favore, diciamo, di questa corrente che sta crescendo in Francia. Dice: sui voti alle elementari Italia indietro tutta. Ora vale la pena di precisare, come fa infatti la rivista, come stanno le cose in Italia. Nel 1977 i voti numerici alle elementari erano stati sostituiti dai giudizi. Quindi ci sono persone che hanno avuto magari i voti elementari, molti invece di coloro che ci ascoltano possono non averli mai sperimentati. Questi voti numerici sono stati poi reintrodotti però dal ministro attuale, dall'attuale ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, con la riforma del 2009. Adesso appunto, come vi dicevo, gli intellettuali francesi, lo ricorda anche Famiglia Cristiana, fanno appelli per l'abolizione del voto numerico. Dice Mazzi: dopo 32 anni l'Italia ha reintrodotto il voto nella scuola dei bambini, l'intera Europa lo ha abolito o lo va abolendo. Le discussioni sui due fronti hanno ripreso fiato, ma lasciatemelo dire, sguazzando tra ipotesi scontate e ridicole. Qualcuno, accecato da una botta di saggezza platonica, sono sempre le parole di Don Mazzi, ha rischiato di interpretare il voto come un modo chiaro per far capire all'allievo se il lavoro fatto va bene oppure no. Forse banalizzo, essendo nemico acerrimo dei voti, perché penalizzando, limitativi e freddi, ma affidare al voto il compito di formare la coscienza e di impostare il metodo per un lavoro giusto o no è, soprattutto oggi, da miopi e da superficiali. Quindi una condanna senza appello, quella di Don Mazzi, per l'utilizzo dei voti. Per bambini di pochi anni, prosegue ancora nella sua rubrica su Famiglia Cristiana, vanno inventati interessi, motivi, consigli, proposte, al fine di capire noi e di far capire a loro le sconfinate potenzialità nascoste tra le incertezze, le storie e il carattere di ognuno, mentre il voto può solo bloccare, bruciare, ritardare ogni fioritura e amplificare le normali incertezze presenti in tutti i bambini. Qui Don Mazzi sembra venire un po' al punto della sua posizione, perché si concentra soprattutto sulla capacità dei docenti di saper utilizzare adeguatamente i voti e o i giudizi. Dice: se l'immaturità dei docenti preparati all'insegnamento ma volutamente digiuni, refrattari a gesti pedagogici e a sensibilità educative, fa usare il voto non con elasticità e tolleranza ma come strumento di potere, di autorità e di difesa, scattano cortocircuiti deleteri. Insomma, il voto, secondo Don Mazzi, sarebbe una troppo facile scorciatoia, diciamo una troppo ampia tentazione per una sorta di deresponsabilizzazione dell'insegnante, e quindi per questo non andrebbe utilizzato. Questo è quello che dice Don Mazzi. È interessante notare che nella stessa settimana però su Vanity Fair Pagnoncelli, nella sua rubrica dedicata al sondaggio, si è proprio concentrato sui voti a scuola, e quindi con questa fortunata coincidenza scopriamo che, secondo il sondaggio appunto che trovate su Vanity Fair, il voto non è così mal visto appunto tra gli italiani. Tra i genitori, in realtà, cioè tra coloro che, campione nel sondaggio, hanno poi dei figli a scuola, c'è un po' più di freddezza, un po' più di resistenza sul voto. Però vi do qualche numero. Lei in Italia vorrebbe i voti o no? Hanno chiesto. Il 41% di chi ha risposto ha detto sì, vorrei i voti espressi in forma numerica. Non è una percentuale assoluta, però è la maggioranza relativa del campione del sondaggio, perché il 25% invece vorrebbe i giudizi, quelli appunto che abbiamo imparato a conoscere dal 1977 fino a 2 anni fa. Molto bene, bene, deve migliorare e così via. Poi ci sono percentuali inferiori per valutazioni più generiche dei progressi didattici, valutazioni che devono essere più articolate, come si la vecchia scheda personale dell'alunno. E poi vabbè, qualcuno sposa anche l'ipotesi dei voti con lettere, come sapete. In altri paesi, in paesi anglosassoni, utilizzano più volentieri i voti con lettera, appunto con 5 lettere che poi alla fine però corrispondono grosso modo al nostro utilizzo dei voti numerici. Quando però il campione viene, per così dire, scremato tra coloro che hanno figli in età scolare, in età da scuola elementare, e coloro che non ne hanno, ci sono un po' più di resistenze, perché la riforma che porta il nome del ministro, la riforma Gelmini, non prende dei giudizi molto positivi, diciamo resta in territorio positivo per il 36% di chi risponde, e invece finisce in territorio negativo, dal molto all'abbastanza negativo, per il 62%. Questo probabilmente per anche le questioni legate al maestro unico, o anche per questioni proprio legate alla simpatia politica di chi ha risposto al campione. Restiamo in territorio genitori figli, perché ancora tornando su Famiglia Cristiana si affronta nella rubrica Il Fatto e le Opinioni. Sapete, è una rubrica in cui, come usa in molte riviste, in molti magazine, si mettono a confronto due opinioni non necessariamente così opposte. Si affronta il tema delle punizioni corporali. Perché? Perché ancora una volta in Francia, oggi la Francia sembra essere davvero il motivo ispiratore di questa trasmissione, in Francia si sta discutendo di una proposta di legge che vuole punire gli atteggiamenti severi dei genitori e degli insegnanti, non tanto quelli legati all'uso della forza fisica, ma proprio atteggiamenti che possono causare nei ragazzi sofferenza morale. Questa è una proposta di legge, se ne sta parlando, è stata presentata da una deputata che però è anche pediatra. Chiede Antonio San Francesco nella sua pagina Il Fatto e le Opinioni se questo tipo di approccio, cioè punire anche le coercizioni di tipo morale, sia poi il giusto o sbagliato, intervenendo addirittura per legge, e lo chiede a Maria Rita Parsi, che è una psicologa, e a Gustavo Pietropoli Charmé, che è specializzato in psichiatria. I due esperti danno diciamo una risposta che non esclude del tutto il ricorso alla norma, ma neanche apre completamente a questo approccio. Chiaramente la posizione della Parsi punta sul fatto che è comunque utile avere un segnale da parte dello Stato, dice: provvedimenti come questi possono prevenire atteggiamenti sbagliati in contesti familiari che sono caratterizzati magari da disagio, e quindi mettere i genitori nelle condizioni migliori per educare. Però si tenga presente che la famiglia non può poi educare da sola. Pietropoli Charmé nota un altro aspetto, dice: mi sembra che in realtà si voglia ratificare in Francia una legge che non è scritta ma che già si usa, perché da tempo sono sparite le punizioni corporali e i vari atteggiamenti di coercizione. Oggi si dice, prosegue sempre Pietropoli Charmé, che i bambini non hanno più paura degli adulti. I genitori seguono da anni ormai la linea che consiglia di non provocare sofferenza morale nei bimbi, di educare sempre attraverso il dialogo e mai con le imposizioni. Personalmente, dice poi Pietropoli Charmé, sono favorevole. Forse l'intervento dello Stato in realtà lascia un po' perplessi, perché come sempre è difficile intervenire con una legge, con una norma nelle mura di casa, e quindi andare a giudicare, a dover anche prevedere delle sanzioni se eventuali limiti posti appunto dall'autorità esterna devono essere applicati, riconosciuti proprio all'interno della famiglia. Allora, ci dobbiamo fermare un momento per le informazioni sul traffico. Prima però delle informazioni sul traffico, proseguo in questo filone perché su Panorama di questa settimana trovate un sistema di controllo che non è né morale né materiale sui figli, ma è tecnologico. E Panorama appunto passa in rassegna i vari strumenti tecnologici che i genitori possono usare adesso per controllare, per sapere dove sono i figli. Quindi si va dal GPS da polso fino al GPS che è nascosto nelle scarpe da tennis, o addirittura l'utilizzo naturalmente dell'iPhone, come sapete telefonino molto popolare tra gli adolescenti. Ecco, l'iPhone offre anche una applicazione per trovare dov'è l'iPhone e quindi si presume anche il suo proprietario. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato nella prima parte di rapporti genitori-figli, proposte di legge, discussioni che stanno originando in Francia, l'una sull'utilizzo dei voti a scuola. C'è una corrente di pensiero, vi dicevo, in Francia proprio che è contraria a questo utilizzo dei voti a scuola. L'Italia li ha reintrodotti peraltro da poco. Un'altra questione invece legata a una proposta di legge pure francese sulla utilizzabilità delle punizioni anche di tipo morale, quindi potremmo dire poi in ultima sintesi i castighi che i genitori possono impartire. Ecco, non devono prevedere sofferenze morali, questo propongono in Francia. L'intervento peraltro normativo lascia un po' sempre perplessi quando si entra così nell'ambito familiare. E infine vi dicevo, high tech per sapere dove sono i figli, ne parla appunto Panorama, fa anche una segna di questi prodotti, vi dicevo dell'iPhone, ci sono anche degli orologi naturalmente che consentono lo stesso utilizzo, quindi sono dei localizzatori, ci sono degli altri localizzatori anche studiati addirittura a modello portachiavi da attaccare, che so, alla cartella come un ciondolo e così via. Insomma, questo avvisa peraltro il giudice su uno dei box che correda poi queste pagine di Panorama, che il minorenne che viene controllato dai genitori comunque deve esserne informato e dare il suo assenso, perché in teoria potrebbe anche rivolgersi al Tribunale dei Minori per avere i suoi spazi di autonomia. Questo lo riferisce Franco Occhiogrosso proprio al collega Stefano Vespa di Panorama, che lo interpella su questa materia. Lasciamo la tecnologia per celebrare un oggetto molto particolare che tutti maneggiamo con una certa noncuranza, direi, ogni giorno. Anzi, la sua fortuna è proprio legata probabilmente alla noncuranza con cui abbiamo potuto maneggiarla. L'anno prossimo, il 2011, si celebreranno i 60 anni della penna Bic. La penna Bic, che poi è una applicazione industriale della Stilo, è un prodotto che è nato in Francia e infatti si ricorda di questo anniversario Nouvel Observateur. Nouvel Observateur dedica appunto al barone Bic una coppia di pagine in cui Anne Crignon riferisce alcuni dei passaggi legati all'invenzione della penna Bic. La penna Bic, come ha detto Umberto Eco, che viene peraltro citato da Crignon, si potrebbe pensare che il punto della Bic è che è stato l'unico esempio di socialismo realizzato, perché ha praticamente annullato il diritto di proprietà e qualsiasi distinzione sociale, perché come sappiamo il bello della Bic è che poi uno se la dimentica, la preleva dal tavolo di qualche collega, la lascia a sua volta sul tavolo di qualche altro collega e quindi c'è una specie di così circolazione permanente e perenne di queste penne Bic, di queste biro che poi gironzolano per gli uffici, per le redazioni, per i negozi. Insomma, la penna Bic si deve, per chi non lo sapesse, all'iniziativa di un signore che si chiamava Marcel Bic, ma con la H in fondo, non con le sole tre lettere che siamo abituati a conoscere. Aveva 30 anni, era alla testa di una fabbrica, a capo di una fabbrica a Clichy, e aveva visto che gli americani stavano cominciando a sviluppare una penna particolare, una penna a sfera, quella che abbiamo imparato poi a conoscere come penna a sfera, che era stata sviluppata soprattutto per motivi militari, perché l'invenzione della penna a sfera non è legata appunto agli Stati Uniti, ma la loro evoluzione sì. Durante la guerra c'era la necessità di avere uno strumento capace di scrivere anche nelle condizioni di pressione alterate degli aerei, e appunto questo portò alla messa a punto della penna a sfera. Si dice, tra l'altro, e lo ricorda l'Osservatore, che il rapporto che fu redatto sul lancio della bomba atomica sopra Hiroshima fu proprio redatto con una penna a sfera su un bombardiere, sul bombardiere che aveva appunto trasferito la bomba atomica. Quindi in qualche modo anche questo oggetto così familiare è entrato in momenti tragici, in momenti decisivi della nostra storia recente. Il signor Bic, che abbiamo lasciato in Francia 60 anni fa, era stato negli Stati Uniti, aveva visto queste penne a sfera, aveva cominciato a ragionare sulla possibilità di produrle su larga scala, e quindi da lì poi ha cominciato la sua avventura imprenditoriale. Tutti quanti sono debitori però del signor Laszlo Biro, che era un tipografo di un giornale di Budapest, il quale è stato il primo a immaginare che si potesse usare una sferetta per fermare l'inchiostro e quindi lasciarlo fluire o invece bloccarlo quando non c'era la necessità. Poi Biro appunto ci ha lasciato il nome dell'oggetto, il nome generico dell'oggetto, il Bic invece lo dobbiamo all'industriale francese che l'ha prodotta. Una ultimissima particolarità sulla Bic, non so se ci avete mai fatto caso, ci sono dei buchi sul corpo di plastica della penna Bic, e non so se qualcuno di voi si è mai chiesto a che servono. Io personalmente sì, ho scoperto appunto leggendo Nouvel Observateur che servono a far entrare la pressione atmosferica in modo costante, così che la discesa dell'inchiostro dalla sferetta sia il più possibile uniforme. Sono dei minuscoli buchi che appunto danno la giusta pressione all'interno della penna e ne permettono il miglior utilizzo. E con questa indicazione concludiamo la puntata odierna di Magazine 24. Vi ricordo che Magazine 24 torna domani sempre alla stessa ora. Grazie come sempre ad Anita Panizza, che mi ha aiutato a preparare questo programma. Grazie a Roberto Scaltritti questa mattina in regia. A domani.